Alcune espressioni sono capite solo nel periodo che vengono formulate. Quando ero ragazzo, per offendere qualcuno gli si diceva tu devi andare a Reggio, e questo perché a Reggio Emilia c'era un manicomio. Usare questa espressione oggi non avrebbe senso perché quel manicomio non c'è più. Stessa cosa anche per la parola di Dio. Essendo stata scritta 2000 anni fa, in essa troviamo linguaggi difficilmente comprensibili al giorno d'oggi. Una di queste si trova nella lettera scritta da Paolo agli abitanti di Colosse. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. CL 3.15. L'Apostolo. Paolo ordina di cercare le cose di lassù a coloro che hanno fatto un'esperienza spirituale in Cristo. Un evento mediante il quale sono nati di nuovo per mezzo di una resurrezione. Ma cosa significa cercare le cose di lassù? Espressione alquanto oscura, perché se ci è un ordine rivolto ai cristiani, è proprio quello di essere pratici, di occuparsi del prossimo, di non correre dietro a delle filosofie, ma di lavorare per il regno di Dio su questa terra. L'ordine di Paolo mette subito in evidenza due cose. Ci sono delle cose che sono lassù e altre di quaggiù, o cose che sono sotto, meno come dicono altre versioni, meno e altre che sono sopra. Una cosa è evidente, il lassù e il quaggiù non hanno a che fare certamente con la dimensione terrestre, come per esempio uno che è lassù sulla montagna e un altro è laggiù nella valle, o uno è lassù sulle scale mentre un altro è laggiù nel pianerottolo. Il messaggio che Paolo era stato divinamente chiamato a annunciare era riferito all'antitesi esistente tra le cose celesti, meno chiamate le cose di lassù, meno e le cose terrene. Dunque, l'ordine di Dio per i credenti è di cercare ciò che appartiene alle cose divine. È importante mettere l'enfasi che l'ordine di Dio è rivolto ai credenti e non agli increduli, perché, come sta scritto nella prima lettera ai Corinzi, or, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere, poiché si giudicano spiritualmente. 1 Cor 2.14. Spesso si usa la parola di Dio per invitare gli increduli ad osservare i comandamenti di Cristo, ma non si deve mai dimenticare che la Bibbia è il codice solo per coloro che hanno scelto Cristo e la sua volontà come l'unica autorità nella loro vita, perché per un incredulo, il religioso formalista, la parola di Dio è follia, cioè un libro non attuale, insensato, un libro pieno di errori. Se il credente è chiamato a cercare le cose di lassù, significa che tutto il giorno deve avere una vita mistica dedita alla preghiera e alla meditazione? Se il credente è chiamato a non cercare le cose che sono sulla terra, significa che deve estraniarsi dalla realtà della vita? Certamente no, perché andrebbe contro alle regole stabilite da Dio, perché, come sta scritto, ognuno deve occuparsi delle proprie cose e lavorare con le sue mani, 1 Tera 2:4.11. Perciò è indispensabile comprendere l'ordine di Paolo. Se le cose di lassù fossero solo quelle riferite a ciò che è oltre la morte, il credente si troverebbe in grande difficoltà a praticare la volontà di Dio. Ma se le cose di lassù sono presenti anche in quelle terrene, allora l'ordine di cercare le cose di lassù si mette in pratica nel cercare anche le cose di quaggiù. In definitiva, si cercano le cose di lassù mentre si vive una vita normale a tutti gli effetti. Possiamo vederne un esempio nella testimonianza data da Paolo in merito ad un dono di denaro ricevuto dagli abitanti di Filippi. Or mi sono grandemente rallegrato nel Signore, perché finalmente le vostre cure per me si sono ravvivate. In realtà già ci pensavate, ma ve ne mancava l'opportunità. Non lo dico perché sia nel bisogno, poiché ho imparato ad essere contento nello stato in cui mi trovo. So essere abbassato, come anche vivere nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato ad essere sazio e ad aver fame, ad abbondare e a soffrire penuria. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Tuttavia avete fatto bene a prendere parte alla mia afflizione. Or, Sapete anche voi, filippesi, che all'inizio della predicazione dell'Evangelo, quando partì dalla Macedonia, nessuna chiesa mi fece parte di alcuna cosa per quanto al dare e al ricevere, se non voi soli, poiché anche a Tessalonica mi avete mandato, non solo una volta ma due, di che provvedere al mio bisogno. Non già che io ricerchi i doni, ricerco invece il frutto che abbondi a vostro favore. Adesso ho ricevuto tutto ed abbondo, sono ricolmo avendo ricevuto da Epafrodito ciò che mi è stato mandato da voi, che è un profumo di odor soave, un sacrificio accettevole, piacevole a Dio. Ora il mio Dio supplirà ad ogni vostro bisogno, secondo le sue ricchezze in gloria. In Cristo Gesù. Efesini 4.1019. Che grandezza d'animo si trovano in queste parole. L'Apostolo Paolo era stato chiamato da Gesù Cristo a predicare il Vangelo eterno, ha lasciato il suo lavoro, una sicurezza economica, e per fede è andato ovunque confidando che Dio avrebbe provveduto per ogni sua stretta necessità, come per esempio quella del cibo. Se è difficile oggi avere il minimo necessario, quanto più era difficile avere un sostegno economico al tempo di Cristo? Non c'è dubbio che l'Apostolo Paolo cercasse le cose di lassù perché ha abbandonato ogni prospettiva terrena, ma i credenti che non lasciano beni e affetti terreni per amore di Cristo, come fanno a cercare le cose di lassù? La risposta è presto detta. I Tessalonicesi che avevano aiutato economicamente Paolo, perché aveva dedicato completamente la sua vita per predicare l'Evangelo, avevano cercato le cose di lassù. Essi si erano privati del denaro utile per sopravvivere per amore di Dio e del suo regno, e lo avevano donato con gioia perché sapevano che il loro gesto era gradito a Dio, e si procuravano in tal modo un tesoro in cielo. Questo è cercare le cose di lassù, cioè compiere gesti che apparentemente non hanno nulla di particolare, avere pensieri che possono essere anche patrimonio dell'umanità, ma il tutto finalizzato a onorare Dio e la sua volontà. Ho lavorato per 37 anni come dipendente in una ditta, ma mentre svolgevo il mio lavoro con serietà e impegno cercavo le cose di lassù. Nei confronti dei miei colleghi ero sensibile e generoso aiutandoli nei loro bisogni, e appena potevo parlavo loro di Gesù quale mio unico Signore e la sola persona alla quale rivolgere le preghiere. Se mi era possibile donavo una Bibbia agli interessati, li aiutavo nelle loro necessità anche a casa, davo una parola buona al momento opportuno. E tutto questo perché il nome di Dio venisse onorato, nella speranza meno, come sta scritto, meno che Dio concedesse loro di ravvedersi, perché giungessero a riconoscere la verità, 2 Timoteo 2.25. Non è facile cercare le cose di lassù, in modo costante e fermo, perché prima di tutto sul lavoro si incontreranno delle difficoltà. Il datore di lavoro pretende che la tua dipendenza al lavoro sia totale, ma quando Gesù Cristo diventa la persona più importante della tua vita e ha la precedenza su tutto, allora il conflitto con il datore di lavoro può diventare inevitabile. Gesù lo aveva preannunziato. Non si possono servire due padroni perché o si amerà l'uno o si odierà l'altro. Il datore di lavoro è importante e deve essere onorato e rispettato. Ma chi ha fatto di Cristo il padrone della sua vita, trovandosi davanti a due richieste contemporanee procedenti dal padrone terreno e da quello divino, inevitabilmente ubbidirà a Gesù Cristo. E la sua obbedienza a Cristo renderà cosciente il padrone terreno della propria posizione secondaria, cosa che porterà a un inevitabile conflitto. Cercare le cose di lassù ha il suo prezzo. L'Apostolo Paolo cercava i frutti che abbondavano a favore dei credenti. Che bella prospettiva! Questo è pensare in modo redentivo alle relazioni. Cioè, in qualsiasi situazione ci si trovi, che sia per ricevere o per dare, che sia quando subiamo un torto e ci facciamo o non ci facciamo le nostre ragioni, non agiremo per propria soddisfazione personale o per un interesse economico o morale, ma perché vedremo tante opportunità per imparare ed esercitare le grandi virtù cristiane, quali l'amore, la pazienza, il perdono, la fede. Il credente che non ha la prospettiva cristiana in tutte le situazioni non sta cercando le cose di lassù e non ha la mente alle cose celesti. Apparentemente sembra una cosa da poco, ma la mancanza di una visione celeste porta l'uomo inevitabilmente ad avere una visione terrena, e per questo cerca disperatamente la propria soddisfazione, è prigioniero della propria autosufficienza, perde la gioia di vivere con gli altri, si rinchiude in se stesso, si ammala di infelicità, corre pericolosamente verso la strada dell'insoddisfazione eterna. L'ordine di cercare le cose di lassù mediante le cose di quaggiù, o privandoci di esse, l'ordine di avere una prospettiva redentiva, non è teso a rendere infelice l'uomo, non è dato allo scopo di farlo diventare povero, ma perché possa essere partecipe dell'opera di Cristo. Limitare la salvezza cristiana alla sola redenzione dalla perdizione eterna significa impoverire miseramente il ricchissimo messaggio del Vangelo, il quale vuole che ogni credente realizzi la chiamata a una vita abbondante al servizio degli altri, con lo sguardo attento alla visione del premio che Dio ha preparato per coloro che lo amano. Chi non cerca le cose di lassù o chi non ha l'animo teso alle cose celesti deve mettere seriamente in dubbio la propria fede posta in Cristo, perché, come la fede senza le opere è morta, così una vita vissuta senza avere un orizzonte cristiano o senza vedere le situazioni della vita come occasioni per produrre del bene è sinonimo di un cristianesimo morto, di un pericoloso deficit di spiritualità. Lo stesso ordine di cercare le cose di lassù presuppone due cose. La prima, che non è istintivo essere attirati dalle cose di Dio. La seconda, che occorre tutto il nostro impegno a pensare al regno di Dio. Così, ancora una volta, la parola di Dio mette in evidenza la necessità della volontà dell'uomo di volere di essere con Dio per l'eternità. Senza questa volontà tutto è perduto. Ma proprio tutto. Ottobre 2007. Ellero,